X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Pietro Ichino, 65 anni, sposato con due figlie, giuslavorista, giornalista, politico, deputato dal 79 all'83 come indipendente nel Partito Comunista, poi senatore, editorialista del Corriere della Sera, dal 91 ordinario di diritto del lavoro alla Statale di Milano, appassionato di montagna e di bicicletta e sotto scorta dal 2002. Nel 2007 è tra i principali bersagli del Vaffa Day di Beppe Grillo, nel 2012 aderisce al partito di Mario Monti perché dice il PD non ha ancora le idee chiare sull'Europa. Durante la sua deposizione al processo per l'omicidio di Marco Biagi dice: in Italia chi tocca lo statuto dei lavoratori muore. Ecco, senatore, partiamo di qui, partiamo dal tabù. Chi tocca l'articolo 18 muore. Lo pensa veramente? Beh, a quell'epoca era così, purtroppo l'abbiamo visto, toccato con mano. Oggi, per fortuna... Ma perché secondo lei era così? Era così perché la sinistra italiana, sinistra politica e sinistra sindacale utilizzava una tecnica di isolamento di chi era fuori linea che generava poi nelle schegge impazzite una sorta di legittimazione a colpire. Ecco, lei... Dal tempo dell'omicidio Biagi è sotto scorta, ha paura? No, ho avuto paura prima di essere messo sotto scorta, quando per esempio nel 2000 ucciso D'Antona, Bersani, che allora era ministro dei trasporti, mi chiese di sostituirlo all'ENAV. Lì ha avuto paura? Lì, in quei tre anni, tra il 99 e il 2002, ricordo... che si sente... I brigatisti erano in giro, certo. Non erano stati presi. Ah, e quindi c'era la paura. Uscire di casa la mattina e rientrare, ci si pensava. Ecco, Biagi aveva paura e lo scriveva. Caro ministro, desidero informarla che oggi ho ricevuto un'altra telefonata minatoria da un anonimo che asseriva di essere a conoscenza dei miei viaggi a Roma senza protezione alcuna. Qualora dovesse malauguratamente occorrermi qualcosa, desidero si sappia che avevo informato inutilmente le autorità. Hanno riaperto adesso il processo. Sì. Spera che si faccia chiarezza. Lì ci sono delle grosse responsabilità, perché il... Di chi? Dei vertici della polizia e del Ministero degli Interni. Il pericolo a cui è stato esposto Marco Biagi era talmente evidente che c'è quantomeno il dolo eventuale nel non mettere sotto protezione una persona che era in quel momento era indicato come l'agnello sacrificato. Ecco, senatore, un po' l'ha detto, ma l'Italia è l'unico paese al mondo in cui fare il professore di diritto del lavoro è una scelta che implica il rischio della vita, per quella ragione che diceva prima? Oggi, per fortuna, ripeto, non è più così. Sono cambiate tante cose, è cambiato il modo di essere del mondo. E anche il clima. Il clima e sono avvenute delle vere e proprie rivoluzioni nella politica italiana che investono anche questo aspetto. Ecco, ma lei che ricordo ha di Marco Biagi, in due parole? Marco Biagi era un mio collega con cui collaboravo strettamente. Io ero direttore del Master in Scienze del Lavoro a Milano, lo chiamai a insegnare diritto comunitario, ci vedevamo tutte le settimane, lui veniva da Bologna, veniva anche perché lavorava col Comune di Milano. Certo. Un grande amico, dissentivamo per certi aspetti, ma l'idea di fondo era la stessa, cioè voltar pagina rispetto al regime della job property e impostare in modo più moderno il problema della sicurezza dei lavoratori. Ecco, ma c'è qualcosa di lui nella proposta del Job Act di oggi, che è andata in aula, anzi ieri è andata in aula, approvata dalla Commissione del Senato? Sì, l'idea di fondo che è proprio questa, cioè questo passare da una sicurezza economica e professionale del lavoratore costruita sull'ingessatura del singolo posto di lavoro a una sicurezza costruita dal posto di lavoro al lavoro, costruita sulla capacità di muoversi del lavoratore nel mercato del lavoro, dalla vecchia alla nuova occupazione, avendo un sostegno del reddito che gli dà libertà effettiva dal bisogno e l'assistenza che finora nel mercato del lavoro italiano non è mai... E quindi sarebbe stata approvata da Biaggi questa... Credo proprio. Lei la sente sua? Tutta? La sento mia, è ancora da fare, non diamo... No, vabbè, ma nella, però nella sua concezione, sì. Sì, nella sua struttura fondamentale, sì. La sento molto mia. Senta, senatore Chini, adesso però oltre la Camusso, anche Landini, che prima sembrava dialogare con Renzi, è durissimo sulla riforma dell'articolo 18, ma si può fare la riforma senza i sindacati? Bisogna farla se i sindacati non capiscono l'importanza. Quindi si può fare anche senza. Bisogna saperla fare anche senza. Mm. Il sindacato tedesco nel 2001-2002 accettò la sollecitazione forte di Schröder, leader socialdemocratico, e fecero quella riforma. Là, l'hanno fatta insieme, qua dice o insieme o la facciamo lo stesso. Sì, bisogna farla e sapendo poi che... una volta fatta, nessuno proporrà di tornare indietro. Mm. Io venni messo in croce negli anni 70 perché dicevo che bisognava riconoscere il part-time, poi perché sostenevo che bisognava superare il monopolio statale del collocamento. E quando 15 anni dopo le cose sono andate in quella direzione, due anni dopo era già tutto come diceva D'Alema, lei è troppo avanti, no? Spero... l'ha detto, l'ho letto in una lettera, insomma. Spero che non sia più così, anche perché questo ritardo del paese nel digerire le novità necessarie è troppo, insomma, lungo. Comunque adesso si fa per decreto, se i sindacati non ci stanno si fa per decreto, no, punto. La via maestra è fare la legge in fretta e bene, sì. Come mi sembra che stiamo facendo. Certo, se ci fosse un grave inciampo su questa strada, credo che sia giusto che... Insomma, lei dà provvede. Per scontato che si fa per decreto? No, io credo... Non vorrebbe, ma teme. No, io credo... Pensa che... ieri in commissione abbiamo approvato... Sì, ma era commissione al Senato. Commissione al Senato. La Camera è diversa. La commissione della Camera mi sembra che gli ostacoli siano un po' più duri, tutti ex sindacalisti. Ma io spero che... Spera o crede? Io spero e credo che il PD sia capace di far digerire questa scelta anche alla propria minoranza, anche perché non dimentichiamo... Beh, lì è maggioranza però, in commissione alla Camera. Ma nel partito no. E Renzi ha vinto le primarie, è diventato segretario del partito con una maggioranza schiacciante, avendo questo, il codice semplificato e la flexicurity al centro del suo programma, quindi la stragrande maggioranza del PD è su questa posizione. Senta, senatore, ma quanti lavoratori riguarda esattamente oggi l'articolo 18? Perché si sentono cifre di ogni tipo, anche Renzi dà cifre. Sì, lì è stato un errore di Renzi, ha detto riguarda solo quei 10.000 a cui per i quali vengono emesse sentenze, ma attenzione, l'articolo 18 riguarda 9 milioni di rapporti di lavoro e rapporti di lavoro dipendente sostanzialmente dipendente nel nostro paese sono più di 18 milioni, quindi è una protezione che riguarda meno della metà dei lavoratori dipendenti italiani. Un po' imprudenti, il fatto che ci siano solo 10.000 sentenze in un anno vuol dire solo che il contenzioso riguarda l'area di incertezza sull'applicazione. Certo. Potrebbe esserci al limite una norma dagli effetti certissimi con contenzioso zero, e però la norma si applica a milioni di casi. Mi dica una cosa, senatore Ichino, lei crede che sia sufficiente gettare sul tavolo di Bruxelles il cadavere dell'articolo 18 per ottenere carta bianca sullo sforamento dei vincoli comunitari? No, guardi, qui non si butta sul tavolo di Bruxelles nessun cadavere, si sostituisce un sistema di tutela vecchio quello che risolveva tutto ingessando un posto di lavoro, con un sistema di protezione radicalmente nuovo. Ma a Bruxelles senza questo non si va avanti. Ma a Bruxelles interessa non d'accordo? Sì, ma voglio dire, a Bruxelles non interessa tanto l'articolo 18 quanto il passaggio dalla job property alla flexicurity. Questa è l'essenza del cambiamento che stiamo facendo. Allora entriamo nel merito. Il vero punto di scontro, lo stiamo dicendo, l'interpretazione del contratto a tutela crescente, sono tutti d'accordo più o meno su questo fatto. La cosa su cui non sono d'accordo è per sempre o per 3 anni, se ho capito bene. È così? È un punto? C'è discussione su questo punto. Noi su questo punto abbiamo accettato in seno alla maggioranza l'arbitrato del governo. Credo che mi sembra anche che Matteo Renzi nel suo discorso alla Camera e al Senato di martedì sia stato molto esplicito su questo punto. Credo che la logica di tutto questo profondo cambiamento a cui stiamo lavorando porti in direzione di una sicurezza che non è più data col vecchio sistema. Quella reintegrazione, lei dice, non è per 3 anni ma è per sempre. Io spero che questo sia l'esito e che il governo vada in questa direzione. Mi sembra che Renzi ne sia molto convinto. Senta, abbiamo parlato prima di Schröder. Lui è riuscito a farla questa riforma del lavoro con i sindacati. Qui è comunque, sembra, alle dichiarazioni di oggi, le posizioni di oggi, è impossibile. Ma è solo colpa dei sindacati o c'è una responsabilità anche di altri? Della politica o dell'imprenditoria? In Germania, intanto il sindacato è uno solo, certo, e questo rende tutto più facile, ma soprattutto sono tutti convinti che senza l'imprenditore che mette insieme i fattori della produzione non c'è lavoro. E quindi c'è un riconoscimento reciproco. Quello che c'è la cogestione. Per quello che c'è la cogestione, anche se quella, per la verità, è una peculiarità tedesca, perché negli altri paesi occidentali non c'è, ma soprattutto c'è questa consapevolezza che senza colui che riesce a mettere insieme i fattori della produzione e attuare, inventare e attuare un piano industriale, il lavoro non c'è o il lavoro viene valorizzato meno. Questa consapevolezza in una parte consistente del sindacato italiano, la CGIL, non c'è. Non passa. La cogestione alla tedesca è uno strumento in più o no? Lei, Letta, ne aveva parlato negli ultimi discorsi, poi non se ne parla più. La cogestione è una delle forme di possibile partecipazione dei lavoratori. Ma è una delle migliori o no, secondo lei? Io credo che sia una forma adatta alla cultura tedesca, che nasce tra l'altro una vicenda drammatica, la guerra mondiale, e probabilmente non è il modello migliore per l'Italia, ma ci sono diverse altre pratiche partecipative. Ma anche in Francia, insomma, la partecipazione un pochino. Basta dire che nel 20% delle imprese europee ci sono pratiche partecipative, in Italia siamo solo al 5%. Siamo indietro rispetto a questo, non è detto che la forma migliore per l'Italia sia la cogestione. Qual è, secondo lei? Ci sono diverse. Dica la sua. Partecipazione agli utili, partecipazione all'azionariato, al capitale, controllo attraverso il consiglio di sorveglianza nelle aziende a governance duale. Ci sono diverse forme e è bene che modelli diversi di partecipazione si confrontino in un mercato libero. Renzi ha parlato di un mondo del lavoro fondato sull'apartheid, e mi sembra un po' una sua idea, è una definizione che quindi lei solo condivide, ma dice gliel'ho regalata. Regalata. Se l'è presa. Diciamo che è l'oggetto di un mio libro, Il lavoro e il mercato, del 96. E quindi, insomma, è sua quella. Ecco, senatore, per uscire da questo ghetto del cittadino di serie B, precario, contrapposto a quello di serie A, garantito e con contratti a tempo indeterminato, lei propone la flexicurity complessivamente. Perché il toccasana? Toccasana, diciamo che è il modo più moderno di coniugare il massimo di flessibilità per le strutture produttive, che vuol dire efficienza, vuol dire maggiore produzione di ricchezza, col massimo possibile di sicurezza economica e professionale delle persone. Ma perché questo tipo di garanzie che derivano dalla flexicurity sono meglio di quello che c'è adesso? Perché guardi, Non c'è sicurezza, non c'è dignità del lavoro, non c'è libertà della persona maggiore di quella di poter andarsene sbattendo la porta da un'azienda dove ti trattano male. Sì, però anche essere cacciato senza poter dire niente non se è bello. Cacciano perché se ti cacciano ingiustamente, quello è un posto di lavoro dove io non rimarrei neanche due giorni in più. Ora, intendiamoci, se si tratta di discriminazione, se si tratta di discriminazione o rappresaglia, anche il nuovo regime prevede la reintegrazione, ma se è soltanto che in quel luogo non sei più produttivo o comunque non sono più le condizioni per lavorare al meglio, ma in questo caso il poter accedere a quei grandi flussi di assunzioni che avvengono anche in questo periodo di crisi, flussi dai quali i nostri disoccupati sono tagliati fuori. I sindacati che cosa esattamente non capiscono, secondo lei? Una parte del sindacato è ancora convinto che la sicurezza del lavoratore, il lavoro stesso, possano essere dati per legge, mentre la sicurezza del lavoratore è data da un mercato in cui abbonda la domanda di lavoro, questo dobbiamo aprire il sistema agli investimenti stranieri. L'Italia è chiusa agli investimenti stranieri, e poi occorre un mercato del lavoro che funzioni. Oggi in Italia abbiamo centinaia di migliaia di posti che restano permanentemente scoperti per mancanza dei lavoratori che abbiano le capacità richieste dalle imprese. Non c'è la formazione. Ma non solo la formazione, ma anche il canale di comunicazione fra domande e offerte. E il lavoratore nel mercato del lavoro è abbandonato a se stesso, anche per colpa di un movimento sindacale che ha costruito tutta la sua attività, la sua strategia sulla tutela nel rapporto di lavoro invece che nel mercato. Senta, senatore, lei è stato però un dirigente sindacale della CGIL a lungo. Che cosa le ha insegnato quell'esperienza? Mi ha consentito di vedere da vicino il lavoro. Che cosa le è rimasto, diciamo? Ho imparato che cos'è un contrattare con il datore di lavoro. Ho visto quali sono le fonti della debolezza del lavoratore. E da quell'esperienza che gli viene questa sua posizione anche? È proprio così. Vedendo da vicino la posizione del lavoratore in aziende e nel mercato del lavoro che ho capito, per esempio, che il monopolio statale del collocamento non solo non funzionava, era un grave danno per i lavoratori. Ma se lei dovesse parlare oggi a quei lavoratori di cui era dirigente, in una parola, cosa gli direbbe per convincerli sulla bontà della sua proposta? Gli direi: fidatevi. Non fidatevi. Rendetevi conto che non è dalla Gazzetta Ufficiale che avrete la vera sicurezza, quella che conta, e un'ingessatura può dare un'illusione di sicurezza, ma quando arriva l'acquazzone anche il gesso si scioglie e il lavoratore resta con un pugno di mosche in mano. Stare per anni in cassa integrazione senza che nessuno si occupi di come e dove puoi trovare un lavoro è una falsa sicurezza. Ma lei la cassa integrazione in deroga la vuole abolire sostituendola con cosa? Cassa integrazione in deroga è un'assurdità perché è un modo per nascondere la disoccupazione e oltretutto. E con cosa la vuole sostituire lei? Va sostituita con un sistema di assicurazione universale, quello che abbiamo appunto messo in campo questo, che è rivolto a tutti e non soltanto a un settore, e insieme al sostegno del reddito voglio dare al singolo lavoratore la possibilità di scegliersi il meglio dei servizi nel mercato del lavoro. Il meglio dei servizi vuol dire un voucher che gli consente di andare dall'agenzia specializzata per e chiedere assistenza, assistenza intensiva, non solo formazione, anche informazione e orientamento. Per questo lei ha detto che nella CGIL degli anni 70, quella di Lama e di Trentin, ha respirato un'aria più libera, più aperta di quella che si respira nella CGIL di adesso, della Camusso. Perché? Esattamente? Io posso dirle che con queste idee io già allora sostenevo che bisognava riconoscere il Ma perché quella era meglio di questa? In quella CGIL io non solo ero accolto, ma ero portato. Era un po' eretico, anche lui. Era un po' eretico, però è un fatto che mi hanno dato grande spazio e è in quella CGIL che ho iniziato queste battaglie. E perché l'ha lasciato il sindacato? Perché a un certo punto mi hanno chiesto di andare in Parlamento. Io nel 79, okay, venni a 29 anni, venni spedito. Dopodiché il PC non gradì la mia battaglia per l'abolizione del monopolio statale del collocamento, salvo poi 15 anni dopo accorgersi che era necessario farlo e farlo fare un governo di centrosinistra. Senta, senatore Chino, lei viene accusato di un utilizzo però spregiudicato della retorica della semplificazione, un po' lo sentiamo, cioè che cosa risponde? Non mi sembra spregiudicato dire che il diritto del lavoro italiano, questo accumulo informe di norme caotiche, illeggibili, insomma va semplificata. Questo è tutta sabbia nell'ingranaggio, questo sono costi di transazione gravissimi, sono incertezze. Ma quant'è il grasso che cola nella pubblica amministrazione secondo lei? Ne parla il ministro grasso, Madia, ne parla il presidente del Consiglio? Il grasso che cola è tutto lo spreco. Ce n'è tanto, secondo lei? È lo spreco di strutture. No, ma ce n'è tanto. Ce n'è tanto. Quanto, mi dica, secondo adesso lei? Quantificare. Ma non voglio proprio sapere alla lira, all'euro. Le dico, dovunque una struttura gira esclusivamente intorno agli interessi degli addetti e non in funzione degli interessi degli utenti, lì c'è del grasso che cola, c'è qualcosa che non funziona. Senta, senatore, siamo in chiusura. Sul tavolo del ministro Sviluppo Guidi ci sono 160 dossier di crisi industriale che coinvolgono 150.000 lavoratori. Il mercato del lavoro che ha in mente lei, quanti ne aiuterebbe di quei 150.000? No, io ho in mente il mercato del lavoro attuale, dove ci sono centinaia di migliaia di skill shortage, di posti che restano scoperti perché il mercato non riesce a mettere in comunicazione domande e offerta, dove decine di migliaia di aziende artigiane chiudono per limiti di età degli artigiani. Occorre mettere in comunicazione la domanda e l'offerta. Senta, ma gli accordi sottoscritti dai sindacati con l'Expo sono un modello da prendere per esempio, come esempio, così doveva essere? Sono già stati presi esempio dal ministro Poletti col suo decreto, perché prevedevano il contratto a termine. Quindi, in via eccezionale, ma bisogna fare un bel passo avanti rispetto a quello, ed è il passo avanti che facciamo col contratto a protezione crescente. Senta, ma in vita sua non è mai capitato di cambiare mestiere perché qualcuno l'ha licenziato? Nell'83 venni licenziato dal mio partito e mi toccò cambiare mestiere. Le però non paura, faccio testa, no, perché ero comunque un privilegiato. Era protetto, diciamo. No, protetto, avevo i mezzi per cambiare mestiere e bisogna che chiunque possa affrontare questo passaggio senza temere per la propria sicurezza e la propria famiglia. Senta, pensa che potrebbe esserci un autunno caldo? Io non lo credo, anche perché il cuore dell'autunno caldo era lo sciopero, e lo sciopero oggi ha perso il suo valore. Lo minacciano, però. Lo minacciano, ma non lo fanno. E non lo faranno. E comunque non sarà quello di ma allora. Ma lo faranno o no? Io credo di no. Crede di no. Credo. Senta, di un'ultima no. domanda. Pensa che si voterà in primavera o no? Non si può dirlo con sicurezza, si può dare delle percentuali di probabilità. A quanto la dà il voto in primavera? Do il voto in primavera a non più di 1 su 4. 20%? 25. 25, sì. Grazie, professore. Grazie. Grazie a lei. Mix 24. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms. Mario, allora che titolo faresti per l'intervista di Chino? Il predicatore nel deserto. E tu, Pietrangelo? Posso dedicare un verso di Elderlin invece che un titolo? Vai con la dedica. Dove c'è il pericolo cresce anche ciò che salva. Musica. Solo su questa strada il sogno che avevi un tempo è tanto peso, tanto dolore, tra il bianco e il nero di una stagione. Ti senti solo su questa strada, ti hanno cacciato, ti hanno tradito. E allora questa canzone, il bianco e il nero, non è la Juve? No, il fatto è che oggi Shiva è sorto sulla terra è entrato in metropolitana a Roma, ah, e di buon mattino, quando tutti i pendolari sono già arrivati, ha radunato nei capolini a tutte le montagne per farne un'imponente cima. Vi ha collocato alberi e poi cespugli, quindi la neve, e ha dato via alla gara con se stesso per conquistare la vetta. Avanzando, ha scoperto di fare l'amore con la montagna. Il bianco e nero è diventato colore. Shiva ha levato in alto il suo Chris ed è stato tutto un disperato amore. Intanto Mario in Scozia, bolle. Vai. Beh, è andata bene, è andata così. God save the Queen! Sex Pistols. Vabbè, non è Shiva. Vabbè, però, non so. È Shiva, ma insomma, va bene. C'ha il suo perché. Zeta Zero Alfa. Stamattina siamo rocchettari. Allora, vabbè, grande democrazia, no? La prima cosa, il voto scozzese, questo ha messo in evidenza. Poi ha vinto il no, siamo a 55-44. Io avevo scommesso. Sì, sì, era, diciamo, era nell'aria negli ultimi 48 ore. Okay. Vabbè, il sì ha conquistato Glasgow, ma ha perso Edimburgo. Non c'è stata realmente mai partita alla fine. Il sì si è affermato ovunque. Leggevo cose molto interessanti che poi verranno fuori. Ai confini con l'Inghilterra hanno votato ovviamente tutti no, ma perché si sentivano più Brit che Scott. Allora, che cosa succede in realtà? Noi dobbiamo chiederci, perché comunque anche i primi commenti che stanno emergendo dai colleghi della stampa britannica sono interessanti. Financial Times stamattina ne aveva già un ventaglio molto interessante. E tutti dicono che sì, Regno Unito, ma senza riforme, tanto, sì, senza riforme non va lontano. Il segnale quindi è fortissimo. Sì, molto forte. E quindi devolution, riforma del Parlamento, ancora della Camera dei Lord, dei poteri dell'esecutivo, sono considerati tutti un'urgenza. Ed Miliband è il vero vincitore, ha condotto una campagna vincente appunto per i laburisti, si proietta come un'alternativa ai Tories, è rinato perfino... Cameron sarà più dura. Sì. Beh, Cameron esce debolissimo dal referendum, questo è sicuro. Prossima tappa, la segnaliamo e la seguiremo ovviamente, è il referendum che nel 2015 dovrebbe tenersi sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea. Sposare un milionario, ricorderete la musica, o una milionaria? È dura. Vedremo dopo. È dura, molto dura. Vi do un po' di cose dal mercato, in ordine sparso, vai, direbbe Jeff Gambardella. Alibaba. Alibaba ha raccolto 21.8 miliardi di dollari nel suo sbarco in borsa. L'azienda è valutata alla bellezza di 167 miliardi di dollari. Pensate che questa avventura cominciò nel 1999 con 60.000 dollari. Li ha raddoppiati. C'è speranza per tutti. Ancora, Apple ha venduto 4 milioni di iPhone 6 in 24 ore, record assoluto per la Casa della Mela, quindi per ora le cose anche lì continuano a viaggiare. La bolla continua un'avventura che però ha un'altra strada, quella di Larry Ellison, è una figura leggendaria della Silicon Valley. Dopo 37 anni lascia la guida di Oracle, da lui fondata nel 77. Sai quanto investì? Quanto? $1,200, all'inizio con due soci. Oggi Ellison ha una ricchezza personale di 185 miliardi di dollari. È il sogno americano. Adesso è anche asiatico. Infatti. Non c'è più il sogno europeo. Giovanni. Fine, ci Fine. Siamo fermati. Allora sentiamo la quota rosa dove ci manda oggi. Mie, provate ancora, insistete, non arrendetevi mai. Ho letto che, Mario, anche tu hai introdotto l'argomento, i miliardari nel mondo sono ben 2325. Inutile dire che sono più uomini che donne, ma ci arriveremo. Per aiutarvi a riconoscerlo, diciamo subito, il miliardario tipo, questo è l'identikit. uomo, età media 63 anni, valore 3,1 miliardi di dollari, si dovrebbe riconoscere a naso. L'Asia è dove aumentano di più e più velocemente. I ricconi cinesi sono 190, in India 100, Hong Kong 82. Allora, donne singoli in ascolto, poi non mi venite a dire che non vi avevo detto dove andare in vacanza. Tre posti chiari. Comunque, se qualcuna di voi fosse riuscita a sposare un miliardario, per favore scrivetelo a mix24@radio24.it, perché io e Don Pietrangelo lo leggeremo con grande cura. E aspettiamo queste lettere della posta del cuore. Intanto Salamini. Buoni propositi per la stagione nuova, i buoni propositi del Cavaliere. Allora, per come titola il foglio oggi con articolo di Cerasa, tra i buoni propositi c'è quello di fare un figlio con Matteo che sblocchi l'Italia, i mille giorni risolti nell'ora fatale, insomma. Cerasa è sempre preciso. Sempre. Però questo del miracolo, fare un figlio, in due, sono non è male. E quelli sono due nazareni. Vuoi ce la faranno. Poi c'è anche un altro discorso, che è quello di portare l'altro Matteo, che è quello buono, il Salvini, a più miti consigli. Ha detto il Cavaliere: lo porterò allo stadio a vedere Milan-Juve, lì lo convincerò. Ora, questa storia di corteggiare due che hanno lo stesso nome, essendo il Cavaliere un uomo comunque d'età che probabilmente parla nel sonno, Per non sbagliare, fa un po' come il mito di Cunegonda, quello che amava le donne però parlava nel sonno, per non farle ingelosire se le sceglieva tutte col nome Cunegonda. Ma esatto, vi volevo dire per non che sbagliare. Giovanni Benincasa segnala su Twitter un titolo dell'Huffington Post fantastico, che però è a rischio di lapsus rivelatore. Allora, voi provate a leggere questo titolo al labiale spento sbagliando una vocale. Il titolo è La fiche di Berlusconi sul tavolo di Renzi. Provate a sbagliare una sola vocale e sarà lapsus rivelatore. Mix 24 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS canzoniere. Si conclude con questo libro una ricerca che cominciò 18 anni fa. Avevo 70 anni. La cosiddetta quarta età era già sulle mie spalle, ma non me ne ero affatto accorto. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666. È difficile questa volta. Mi viene una battuta. È difficile, libro. Dillo. Che barba. Ah, carina. Bolle. Perché vedete, le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi, le famiglie come la vostra, che vogliono, non si accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le pellicce e tutti i cazzi che ve se fregano. Costano molto e per procurarsi di qualcuno bisogna depredare. Ecco perché si fanno le guerre. Finché c'è guerra c'è speranza. Allora è uscito qualche giorno fa il documento del National Intelligence Strategy, che diciamo è lo zar delle spie americane. È un documento che fa un sommario di tutti i rischi della contemporaneità. È molto interessante, segnalo, perché dice che la scarsezza d'acqua, cibo e inondazioni porteranno a nuovi conflitti. Pensa, oltre 600 milioni di persone vivono in zone che hanno siccità e inondazioni alternate o da sola, o solo l'inondazione o solo la siccità. Tu capisci che tutto cambiamento questo del clima e guerre conduce a nuove guerre. Sì, sono cose da leggere, che danno un senso a quello che sarà poi lo sviluppo della storia. Certamente. Intanto ancora un salamino. Nei cieli, ed è festa anche in terra. Oggi è il giorno dei giorni, oggi in omaggio a Marina Milone, in omaggio a Paolino Isotta, in omaggio ai tanti devoti del santo, vi faccio ascoltare la più bella delle preghiere proprio per San Gennaro. San Gennaro, a Napoli tutti ti vogliamo bene, sei amato, rispettato, ogni tanto fai il miracolo, ma parliamoci chiaro, nel mondo sei poco conosciuto. No, non voglio dire che non sei considerato, ma ci sono santi più conosciuti di te, forse meno meritevoli, ma che tengono città col loro nome. San Marino, San Francisco, San Tropez, Gennari, con il dovuto rispetto li dobbiamo offuscare a tutti. Ma per arrivare a questo dobbiamo fare qualche cosa di grande. Dammi l'autorizzazione e io ti faccio diventare il santo più importante del mondo. Primo in classifica, San Gennaro, che dici? Era Nino Manfredi, sì, in un film meraviglioso, grande, fondamentale, che è Operazione San Gennaro. Operazione San Gennaro. Quindi, beh, festa, vero, per San Gennaro. Festa. E intanto Marina Tardelli ha intervistato una donna coraggiosa, Virginia Tiraboschi, una donna che a 50 anni ha accettato la sfida di cambiare lavoro e passata dal pubblico al privato. Sentiamola. Virginia Tiraboschi fino a 2 mesi fa era direttore regionale di cultura, sport e turismo in Piemonte. Oggi invece è amministratore delegato della San Maurizio Spa, una società che include alberghi, ristoranti, prodotti agroalimentari e anche una linea di bellezza. Dottoressa Tiraboschi, ma com'è stato il salto dal pubblico al privato? Beh, insomma, è stato un salto sicuramente fatto con grande coraggio, però secondo me era arrivato proprio il momento a 50 anni di virare. Dottoressa Tiraboschi, ma le è già capitato di scontrarsi con la burocrazia che è tanto odiata dal mondo imprenditoriale? Io ho ancora qualche canale, come dire, legato alle relazioni instaurate negli anni precedenti che non mi hanno portato a dovermi scontrare. Ma secondo lei bisognerebbe snellirla questa burocrazia per le imprese? Beh, assolutamente, assolutamente. Quando si dice che si devono diminuire le tasse, io dico che è assolutamente impossibile fare questa operazione se non si diminuisce la spesa pubblica. La pubblica amministrazione è diventato il serbatoio dei voti della politica, lì dentro sono finite tante persone che non sarebbero dovute finire. Quindi se si taglia la burocrazia si tagliano anche i costi. Assolutamente, non solo, viene fuori il meglio del nostro paese. Perché nel pubblico è così difficile fare marketing o brandizzare dei luoghi d'arte? Allora, il marketing territoriale ce lo deve insegnare sicuramente la Francia. È sempre un problema, come dire, di pubblica amministrazione, veramente di burocrazia. Per quanto sia difficile fare il marketing territoriale, per farlo bene bisogna fare sistema. E quindi i sindaci, per esempio, di un territorio non devono pensarla in maniera differente l'uno dall'altro. Dottoressa Tiraboschi, ma perché rimaniamo un po' sempre sullo stesso punto, nel pubblico, appena si prova a far fruttare un luogo d'arte, si alzano le barricate e si preferisce invece farlo cadere a pezzi? Molti direttori regionali, piuttosto che sovrintendenti o così via, hanno sempre pensato che tutelare un bene culturale fosse meglio che non farlo rendere. E tutelare cosa voleva dire? Voleva dire, nella mente di costoro, lasciare questo bene, come dire, alla fruizione dei pochi, di quelli che capiscono di cultura. Non bisogna, sì, lasciare, come dire, questi patrimoni ereditizi in mano a coloro che li vogliono chiudere nelle stanze che io definisco del potere, inteso, collegato alla conoscenza, come dire, della cultura. Senta, dottoressa, lei è stata dirigente nella pubblica amministrazione per molti anni. Qual è la cosa positiva che ha imparato nella macchina dello Stato? Sicuramente l'equità, l'onestà, la trasparenza me le sono portate dietro e credo che contraddistingueranno tutti i prossimi anni del mio percorso. E poi guardi, il coraggio. Di nuovo, perché mettersi contro l'apparato politico, io tante volte l'ho fatto, significa avere molto coraggio. Dottoressa Tiraboschi, lei ha appena iniziato la sua seconda vita, ma ha già delle idee per la terza? Ah, molto simpatica questa battuta, è vero che siamo molto longevi, ma la mia seconda è iniziata a 50, signora, la prima è durata 25, quindi la terza, lei dice, fino a 75. Beh, allora la terza solo girando per il mondo, assolutamente, perché a quel punto lì veramente completerò me stessa, perché la maggior cultura stia andando a contatto con civiltà diverse. Giancarla D'Ancona per il Canzoniere. Va bene. Buongiorno, buongiorno. Sì. Qual è il libro? L'amore, la sfida e il destino di Scalfari. Ah, giusto! Bravissima, la signora che fa lei? Che fa ad Ancona? Io sono pensionata. Ah, legge Scalfari? Qualche volta. Ah, bene, bene. Allora, tanti auguri. Grazie, siete una forza, tutti e quattro. Ah, siamo cinque, sei, sono tutti siamo bravissimi. Noi. Sono i nomi, sono un po' incerti, però insomma... Sì, ma chi è Marina Tardelli? Chi è? Ah, è Sara Milone, insomma. Siamo noi. Cioè, è invertito. Vabbè, è una tale sintesi qua che non si riesce. Ma adesso noi abbiamo Mario Buttafuoco. Mario Buttafuoco. E Pietrangelo Secchi. Vabbè, io resto Giovanni Minori, va, lasciatemi così. Il 19 di settembre del 95 moriva il fondatore della comunità di San Patrignano, Vincenzo Muccioli. Io non mi sento un capo carismatico, mi sento un uomo che ha una visione chiara di un problema. Mio papà mi ricorda e diceva sempre che io non ce l'avrei mai fatta, perché sì, io ero parecchio testardo, mettiamola così, ero parecchio convinto di quello stile di vita. Però qui ho avuto un sacco di persone vicine, partire da Osvaldo che lo considero un padre, perché alla fine mio padre non è mai stato così tanto presente, poi tantissimi ragazzi che mi accompagnavano, diciamo, dai, nella mia quotidianità. Credo che la vita di un uomo salvata sia più preziosa di qualunque egoismo.